trappola. Resto a fianco dei più giovani che devono fare gol. Ci sono caduto anch'io. Berlusconi finalmente si ritira e va in panchina, su quella del Milan. Povero diavolo. Tanto peggio di Allegri non può fare.